È un percorso che poi tiene conto anche delle dinamiche nazionali, ma non nel senso in cui qualcuno che aveva orientato il ragionamento nei giorni scorsi, parlando di anche a Bologna di una maggioranza draghiana, diciamo, una maggioranza ampia, trasversale a destra e a sinistra. Io penso che ci siano tutte le ragioni per il mantenimento di una identità del centro-sinistra distinto dal centro-destra, e che l'esperienza di Draghi sia un'esperienza eccezionale, diciamo, in un momento critico per la salvaguardia della salute e del lavoro degli italiani, ma che a Bologna, così come nelle altre amministrative, quello scenario deve indirizzarci verso quello, lo citavo nella mia nota, che lo stesso segretario Zingaretti ha indicato, cioè dire costruire all'interno di questo periodo in cui stiamo dentro un governo, diciamo, di unità nazionale, le ragioni per un nuovo centrosinistra, per un'alleanza che possa adesso candidarsi assieme alle amministrative e domani ragionare anche sul governo del paese, a partire dai tre protagonisti leali, diciamo, dell'alleanza giallorossa, cioè il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle e l'EU. A Bologna questo significa puntare sul radicamento dell'asse con Coalizione Civica, su cui ci sono già stati segnali molto importanti di disponibilità reciproca, ragionare con il Movimento 5 Stelle su una possibile alleanza con loro e dopo naturalmente non chiudere le porte, non chiudere il perimetro, ragionare con altri, anche con le forze civiche, anche moderate, anche centriste, basta che sia sui progetti, basta che sia sullo sviluppo della città, che io intendo come un utilizzo, una valorizzazione delle opportunità aperte dal recovery plan, cioè dire fare in modo che Bologna possa approfittare del generale rinnovamento in cui l'Italia sarà coinvolta attraverso una prospettiva di cambiamento, di sviluppo in senso sociale, in senso digitale e in senso ambientale. Ecco, questo sull'assetto, sulle alleanze, c'è anche una figura che potrebbe interpretare bene questo percorso, tra quelle ovviamente che sono già in circolo? Intanto io credo di sì, credo che sia quella di Matteo Lepore, che non da oggi sostengo sia la persona, diciamo, più preparata in questo momento, più in grado di fare il sindaco di Bologna, non solo per l'esperienza amministrativa, ma anche soprattutto per il radicamento sociale che ha mostrato in questi anni, e poi proprio per l'attenzione a quei temi che citavo prima, il tema di uno sviluppo sostenibile, il tema di una transizione ecologica, il tema di una digitalizzazione della città, e che tutto questo avvenga nell'ambito di un ampliamento della democrazia, sono questioni su cui Matteo Lepore ha lavorato, sta lavorando, con poi in questo momento centinaia se non migliaia di cittadini, fra gruppi, associazioni, comitati con cui sta lavorando insieme. Ecco, io credo che su questa figura si debba puntare. Io mi auguro che il Partito Democratico possa convergere unitariamente su di lui, ma altrimenti il nostro statuto prevede l'istituto delle primarie, anche quella potrebbe essere un buon modo, diciamo, per aprire la campagna elettorale e iniziare a parlare della città. Però insomma siamo in una pandemia, quindi anche sull'opportunità delle primarie si è discusso, no? Nelle settimane scorse. Sì, però le soluzioni si possono trovare. Il PD nazionale ha già detto che è in grado di predisporre una piattaforma digitale per consentire delle primarie online. Se a questo si affianca anche una apertura dei circoli, che a quel punto diventerebbe molto marginale dal punto di vista numerico, per quelle persone magari anziane che preferiscono votare di presenza perché non hanno dimestichezza con gli strumenti online, insomma la si riesce a fare senza mettere a rischio la salute delle persone. E magari non subito, magari fra un mese, però la possibilità ci sarebbe. Dopodiché, se la politica riesce a trovare la sintesi, meglio ancora. L'importante è che nessuno pensi a colpi di mano fra organismi dirigenti ristretti per decidere il futuro di Bologna, perché questo non sarebbe capito dai cittadini.